Marco. Sommal. Storbito, sì. Ciao. Ritto sono. Bene o male. Buonasera comunque. E beh, cos'è combinato oggi? E cosa dobbiamo combinare? Nulla. Mi spedire un pacco a mia figlia a Londra, perché chi c'è altro? E buh, andate a un paio di anni, da 90. Quando c'è da fare qualcosa, bisogna farlo e basta. Fatto fatto, se ne parla più. Bah. Cosa vuoi fare? Io stamattina siamo usciti a alle 7.30, ma un'oretta e siamo qua e non ho fatto altro, tutta la in casa. E ero grigio, vendeva, devo riandare, andando in sul lupo che andava a vendere, ma mi sa che mi verrà a fare all'aria, vero? Dice che le farà l'aria, gatta, trori e lampi. E invece, salvo che non c'è caduta domani. Ma, può darsi buru, può darsi pure, ammesso entro stasera, o se no domani mattina. Se ne può fare, se no se le c'è via la base di Olbia. Ma la base di Olbia per serpente. Perché è sempre molto nuvoloso questo, si vede qua. Sopra sempre sono i nubi proprio forti, non si chiede ma si fende marigri. E allora, chi è sempre così ai sabati? Se non fa qua fa lì, se non fa lì fa qua. Ma non è che deve fare sempre vino, anche qua la deve fare. Perché non basta mai l'acqua. Ma mi sa che Rudarreno non ha più bisogno d'Eva. In certi posti è secca la terra, capito? Io c'era un pezzo vicino al confine di un altro, no? E io è sempre secca la terra, strano, ho detto, ma quando mai l'Eva non farà bene? La metà un pezzo, la metà un po' secca, l'altra metà sempre un po' fresca la terra. Mari, scusa un attimo, che c'ho gente. Adesso che voglio, chiama. Mari, attenzione, Gian Maria. Gian Maria. C'è un po' di QRM c'è però, Se guardi sulla in FM ci sono i tedeschi. Perché c'è propagazione molto in FM, capito? E lo senti anche in AM. Infatti stavo guardando, ho controllato e ci sono loro. Arrivano 5, 6, arrivano. No, riescono molto, specialmente alla Germania, ragazzi. Senti in FM quelli trasmettono. Infatti, no, trasmettono in FM. E noi in AM. L'FM non la calcoliamo quasi noi. Sì, io già vivo in va. Almeno noi la possiamo adoperare sia in AM che in FM. Cosa ci dice? Ma senz'altro noi rompiamo a loro, senz'altro loro rompono a noi. Infatti. Ma da cosa? Da Roma a Torino loro sono i cugini, sono più forti di noi. Ma loro mi sembra che c'hanno più vatti, c'hanno. Possono trasmettere un più watt, mi sembra, loro. Sì, fino a 8 watt loro possono trasmettere, non di più. Certo. E a noi ce ne danno 4, capito? Invece la Spagna è come noi, 4 watt. In AM 4 watt in FM. Ah, così è. pensavo che fossero diversi la Spagna, invece no, hanno quattro watt ugualmente. Che in Inghilterra c'ha quattro watt. Il Belgio, altre nazioni che sono a coso, sono 4 watt. La Polonia, chissà che mi ha fatto trasmettere. Mi pare 4 watt lo stesso, però sono 6 o 7 canali che hanno la Polonia. Ah, solo? Stavo leggendo il coso, mi aspetta che ce l'ho qua davanti. Aspetta, a vedere quanti canali hanno loro. Infatti la Polonia c'ha 4 watt e loro fanno AM FM 4 watt e 1 watt in FM c'hanno. Certo, dove c'è di più invece ne hanno poco. E cosa fanno se c'hanno pochi canali, gatto? No, invece non c'hanno pochi canali, no. C'hanno anche loro 40 canali. 40 canali. La Germania è che c'ha anche 80 canali in FM, 4 watt. E 12 canali in AM c'ha. Ah. 12 solo in AM. Non lo sapevo. Poi c'hanno in AM c'hanno la potenza di un watt. E allora siamo signori noi, vai. E così sia che l'Italia che la Spagna hanno 40 in AM, 40 in FM e 4 watt. Compreso. La Francia ne ha 40 canali. Ne ha. In FM 4 watt, 40 in AM 1 watt. Insomma, sono un sacco di azioni precisa la nostra, là. Così che non ci possiamo lamentare noi. No, infatti non ci possiamo lamentare, no. Ma chi si può lamentare è la cosa, l'Inghilterra, perché loro fanno tutto in frequenza, tutto in FM, 4 watt, 40 canali, tutto 4 watt. Ah, solo in FM loro? No? Sì, solo in FM sono, non usano solo l'FM. Senti questo, atta, sai come arriva questo? Certo, questo lo sentiamo, io lo sento fortissimo anche in AM. Sta arrivando Santiago 7 a me, mi sta arrivando. Basta che non sia in FM. E poi in FM aumenta la potenza, mi sembra. Infatti aumenta di più. Ma dai, non ci lamentiamo, là. Stiamo bene. Per cui, a voglia. Ce ne sono. Che poi magari i canali noi, certe volte, sai quanti canali usiamo noi? Magari non li possiamo usare, però li usiamo ugualmente. Infatti. Ed è così. Noi sotto sotto ne usiamo un bel di più di canali. Bah, e allora. Ui. E cosa si vuole fare? E poi siamo pochi adesso, per cui siamo tranquilli, là. Prima non bastavano mai i canali, gatta. Era pieno, tutti i canali sempre pieni, gatta. Mentre sono tutti vuoti, così che anche dall'altra parte hanno dimezzato parecchio. Sì, perché l'Unione Europea questa cosa la vuole. Così è. E allora, ha rimesso questa cosa di Unione Europea. Va. Guarda, ci avrebbero aumentato invece la potenza del PMR, ragazzi, almeno. Almeno 4 watt in PMR, sarebbe stato bene almeno. Sì, ma aumenteranno quello, lo metteranno in coso, anche sui cosi, nel coso VHF Marino, che stanno mettendo la licenza, adesso la stanno facendo andare ugualmente così che ci vuole la licenza. invece di fare richiedere la licenza direttamente al ministero. Ah, così è. A tutto tempo si usava anche Mario Gatta. Ma ti ricordi che tempi che... io ne ho uno marino, ma sai da quando è che ce l'ho con la pari? Ma è ormai vecchio. Un portato dalla Inco, e mi manca solo il carica batteria, certo, però funziona, una volta ho adattato un trasformatore, ho visto che ha caricato e si sente bene, e mio ce l'ho 40 anni più quel portatile. Cioè, quello che ho io, che ormai non andrà più, avevo adattato quello del portatile Intec, l'avevo attaccato, e ha caricato, poi invece non caricheggia più la batteria. Mi sembra che siano 88 canali questo che ho io, ma è vecchio, hai 10, mi sembra che ce l'hai 10 dalla Inco, è vecchio, molto vecchio, cara. Ciao Lu. Ehi, Giomari, cos'è? Con le rotelline? No, dunque. No, c'hai i canali con la manopolina e ti esce sul display. Sì, ti esce sul display. C'è il display piccolino. Quello che ho io è con le rotelline. Ma è un bel vecchio, ormai se di più non si non funziona più. No, quello... aspetta, c'era Luca. Buonasera Luca, puoi anche entrare se vuoi. No, sa Ciara. Ed ho avuto un altro pure che l'avevo regalato a quello di... a chi è che l'avevo regalato? Quello c'aveva la tastiera come il telefono. Capito, c'era bianco era, anche quello era un watt, 25 watt, però quello era da barra mobile, era veicolare quello lì, era nuovo, sì. Me l'hanno regalato uno che è senza quarti, c'è un quarto solo, il canale 1. Il resto è tutto senza quarti, erano due, uno l'ho regalato e uno ce l'ho io, non l'ho mai usato. Accende sul canale 1 esce, perché l'avevamo provato con quello che ho regalato, e c'è un controllo ancora quello. Dovrebbe funzionare ugualmente, perché è da parecchio che ce l'ho. Sì, adesso tanto con i nuovi sistemi, anche le nuove radio, ci vuole il coso, la licenza che va, e poi si adopera oltre le 6 miglia. Ma avevo fatto via Mario la patentino, però potevamo usare sulle navi, potevamo usare il radiotelefono. Ancora ce l'ho quella patentino, radiotelefono, potevo usare anche 400 watt. Sì, e prima si potevano usare così come... Adesso invece con la licenza te lo fanno usare soltanto sulla barca, dalle 6 miglia in su. Che ne tocca più quelle frequenze, ormai no. Ormai ne tocca più quelle frequenze, prima magari era più... Cazzo, sentivamo i pescatori, gatta, già erano, avevano anche la 27 i pescatori, i pescherici, eccetera. Però usavano questi apparecchietti e li sentivamo molto spesso, capito? Infatti quello l'altra sera l'avevo regalato e mi avevo lasciato questo portatile solo. Sì. Che dovrebbe funzionare ancora, ma non mi ricordo dove l'ho messo anche, boh. altri tempi, va. Infatti, quelli erano altri tempi diversi, va, è tutto... se devi avere la radio sulla barca dalle 6 miglia in su, devi avere con la licenza tutto intestato a te. E con numero di matricola anche. Beh, è giusto che sia così. Ma prima potevi mettere anche la 27, adesso non so se la possono mettere la 27 oppure no, o forse devo usare solo il VHS, boh. Sì, non lo so, di questo non lo so cosa, io so che ho letto il coso della licenza del VHF, cioè solo questa licenza qua che devi avere dalle 6 miglia in su. Che ci va più a ascoltare lì, boh. ormai quelli lì sono morti, quelli apparecchi. Già sta morendo anche la 27, puoi immaginare usare anche quelli, magari qualche volta così ascoltare. Anche per le previsioni del tempo, eccetera, eccetera, capito? Anche per quello, perché c'erano due o tre canali che stanno sempre trasmettendo come il tempo, i mari, capito? Sì, quello già lo so, e lì, quando avevo acceso quella radio là, li sentivo tutto quanto, in tre canali li sentivo. E molte volte mi accendevo quello per ascoltare, per andare a pescare, come era il mare. Quando si fa ballone si va in mare, capisci? Ora e ora ascoltando. E qualche volta abbiamo anche parlato, magari breve passaggi, però qualche volta ci abbiamo parlato. E prima si poteva fare, invece se non c'è quella licenza lì non si può portare in nessun posto adesso, solo dalle 6 miglia in su lo puoi portare, poi se vuoi portare un portatile nella cosa lo devi tenere un pochettino e chiedere se lo puoi portare alla capitaneria. Ma quelli conviene magari chi va a mare, capito? Ma noi già ti interessa più queste cose, non ti sembra? Quando scendo chiedo se si può portare dentro le 3 miglia, se si può portare un portatile, ma non ve ne è bisogno, basta usare un telefono. Ma infatti ormai un telefono fai tutto. Prima non c'era la comodità del telefono, invece adesso il telefono supera tutti gli ostacoli. C'è il telefono che c'hanno tutto e... Io sono per ascoltare una frequenza, arrivano bene qua, ma non sono qua. Quale frequenza sono? Non sono qua. Sì, faccio compreso io. Dovrebbero essere vicina a cosa dovrebbero essere? No, ci sono, partivano da un medo e facevano il tratto di cose, dove c'è una sì, di una riera dove c'è una sì. Che fanno di fatto, l'atterraggio, la partenza. Ah, quella è quella delle cose degli aerei. Guarda che era un po' così successivo. Sì, ma non entrambi, la Rosai, si accostano. No. Io ho capito quale frequenza stai usando. Comunque quelli del Reline li ascolti? Quelli? Il Reline stamattina non ci sei sceso a vederli? No, negativo. Ma perché ti sei da forte? No. Penso che io sappia la frequenza di dici. No. Cioè domani è la gara, la prima gara che è proprio, partono domani mattina, partono. Poi c'è sabato e domenica. La domenica è tutto vicino a Traghero, Sentino, cosa, Argentiera, Portoferro, tutte le, quelle parti lì. Prendevano Sivin ancora. Aspetta, buone sono ai primi di luglio, quando comincia a fare su gas un voci. No, che adesso la lì fa, poi tu da grossa fa, la lì fa giù. Sì, ma che c'è con l'eva che ha fatto, non so se di un bea va, non so se di comunque, devi lasciarli un bea, devi lasciarli, fa sei buoni. Sì, vabbè. Riprenditela, signor Giomarini. E ancora non è tempo di macchine. Ancora no. Si trovano le macche. Sì. E lo macconi. Però, sono pochi quelli che si trovano. Se mai mai, prima che sta a sacchetti pieni, gatto, a secchi pieni si trovava, gatto. Per questa lì, ha ribigiato pure la crea, l'ha ribigiato, gatto, ma per questo non vede più. Più magari tutte queste medicine che buttano, ammazza la crea, questi che non cresce di nulla. Sì, ormai, cosa vuoi fare? E comunque già, venne un bel luogo, grazie mille, venne. Ce ne ho visto sì, però meglio aspettare ai primi di luglio con gallo voti. A noi, l'anno scorso, l'abbiamo presa a Piazza Vestigie. Sì, un po'. Però non è un piatto, sono di vivaio quelle lì, so. Non è che siamo saporite, capito? Quelle buone, proprio saporite, sono quelle salvatici, quelle che facevamo noi. Ma queste di vaio, no? È come le lumache, non c'hanno sapore, capito? Infatti, non c'hanno sapore, no. Infatti, se ci riesco più avanti, che faccio tutto il sugato, me la faccio un po' garido. Ma, sì, mai, mai. 40 anni fa ne trovavi dappertutto, è bella, quelle belle grosse, quei pomodori freschi lì, catta la donna, cazzo, sono buone, cazzo, ma quelle grosse però è. Ma purtroppo la ciappaglia va, bisogna che vai in qualche campagna che non è dagli adruvieno. Però secolo conviene, no, cazzo. Perché bisogna farla smaltire bene, perché sennò si va a diarrea di questa cosa. E sono pericolose. Infatti, bisogna trovarle con il fieno secco, così sono buone. No, se si vende in Arogoso, si vende in sotto la pioggia, buri. Luca, non ci andare ancora che lo servono. No, perché lui già fa, siamo già a servono. Non si sta a servono. A proposito, ma cosa è successo alla macchina, alla macchina vostra? Eh? A qualche incidente avete avuto, Luca? No, lei ha fatto l'incidente, lei che è un imbecille. Lo cristiano che poi si è accavato e si gente a casini e che cose ad esempio si dice, capito? Nemmeno ci immaginiamo e succedono queste cose, o da una parte o dall'altra, capito? Succedono! Non so. Bah, allora. arrivo a toccare io, perché a me una volta ho parcheggiato lì alla Bricomen, e stavo uscendo alla Bricomen, c'era un fuoristrada francese della Corsica con la ragazza, stavo facendo manovra per parcheggiare, che la figlia mi ha toccato il paraurto, quello di ferro, vicino dove c'è il tappo del serbatoio. Gatta, mi stai tra dritto, gatta, mi hai fatto un bel danno, gatta. L'assicurazione, gatta, fammi l'assicurazione. Invece la cosa, siccome non era la sua la macchina, era un altro amico che gli aveva prestata per venire qua a prendere materiale, certo. Allora ma dopo gira mi ha dato 200 euro e me la sono riparata, però mi ha dato 200 euro e appunto a firmare le macchine, e vabbè, altro la firmo, ho firmato un pezzo di carta e mi ha dato 200 euro e me lo sono riparato. Sono brutti gli incidenti, bisogna stare attenti. A me venerà una tradita, giommai non mi sembra, ma ce ne farà di incazzato che dovevi abbassare il prima, allora ci ho fatto, fa una cosa, quando ne hai voglia vai a scuola guida e impara a guidare e a sapere i segnali, destra e sinistra. E ce ne sono parecchi ancora, specialmente sulle rotonde, quelli dei paesi, la maggior parte che magari loro rotonde non le hanno, e quando vengono a Sassari si trovano anche in difficoltà, e allora tocca stare attenti molto lui a quelle persone, capito? Perché non conosco i segnali, sulla rotatoria bisogna dare la precedenza. Ci devo la precedenza. Ma questo l'altro giorno era convinto che toccava a lui a passare. E gli sto andando via prima e a andare con la guida. Cioè anche se ne ancora di più. E uno ha detto, caglia di mondo che è meglio. Sassarese. Sassarese. E chi sarà detto a cagliarsi mondo che era meglio. Se verrà. Se ti l'ha detto vuol dire che è così. Ma ce ne sono parecchi ignoranti che ancora non hanno capito com'è la faccenda del codice stradale. Però certe volte più attento stai peggio succede. È un macello tu. Luca! Mangiato sta quello lì. Sì, mangiare le macchine che ha cucciuto. A passaforo gli piace molto. Lui, che ha dormito, sì. No, scusate, dove stai andando? Non capisco. Dove stai andando? No, sto facendo una valigia, io devo buttare di andare a fare la stessa. Ehi, va bene. Se sei perdonato. Comunque, vabbè, se nel caso trovo le macchine, faccio le macchine grosse. Ci andiamo un po', là, una mangiata, non è per le marina, faccio le macchine. Uno conviene andare, si lancia per la ciappa, la macchina. Si va ad una passeggiata, può darci che ci capisci proprio dove ce ne sono e te le fai un bel po'. Se ne è raro, siccome sono un po' rilassato, ma tu se sono troppe, non me la voglio dire l'altro. Non sono mai troppe, più finne meglio è, perché quelli metti una bustina e una rete e la durano. No, ma non c'è, cosa vuoi, quindi è un bel. Un anno io la bacio in argentiera, gatta gioca in vira, gatta in fascia dura, gatta Maria, che suga tutta luce, senza sapere, non si aveva peccati, però non siamo riusciti a peccare niente, ma chi per un bel mare. sono bene male, mira, allora invece la faccio mangiare, sono fatto il fuoco, sono la rocca, ivi, ai sette di camma per un mare, soia, lo mangiamo, sta facendo una bala in vira. Pare che abbia fatto lei, per dire 80 gioca, ma non era matura, matura, però era piena, piena, piena, che braccio che faccia dura, vera. Ma io parlo di 50 anni o di più, Gatta, nessuno me ne gioca la busta, che pure una cosa di capisci, rimane di capisci, avevo pieno, ma parganina, gatta. Allora non c'è più il lungo. Amari. Ecco, io devo andare a prendere la signora, ci sentiamo dopo, ci sentiamo, ok? Ciao Luca. D'accordo, sto. Vabbè Giovanni, io ti provo a guardare domani, la passeggiata, dai. Ma è facile. Se faccio la passeggiata, si può fare. Cazzo, cosa fai a casa, lampato? Lui? Ah, ma qualche cosa a casa, vici, dai. Allora, due volte sono andato, tre volte. Se tre volte ho fatto un certo tanto di tutto, non è vero. Ehi, ehi, ehi, io sono da giovane, ci andavo molto spesso, da giovane ci andavo molto spesso perché mi sono sempre piaciute le vacche, e le vacchine. Però va, oh, lo saranno, qualche poco lo trovo sempre in campagna mia, ma pure in campagna vado fino più come se prima, fino a parecchio, dico un mese, un po', qualche magnata per scia, ma la c'è più la cura, basta. È vero, è vero, prima, vabbè, anche tu, allora adesso qua, faccio quella fatto sta così, magari prima erano in pochi quelli che andavano alla macchina a cuore, erano in pochi là, tra la mente, capito? Io mi ammetto che lo stesso erano i propri giocaggioli che non avevano un'idea, capito? Era comprava lui dallo stesso, che allargava la stazza e se la vendia. Ah, ma invece tutto fatto, guardare tutti impiegati, tutti, cazzo faceva, tu vedi le macchine, cazzo, in la strada, cazzo, a fila, cazzo, tutti si che gioca. E poi piglia nel buio il tarasi molto, cazzo, è chiaro che la distruggere non la sa per più, già che sono lampetti che medesini, diserbanti eccetera, che ammazza la cria, ammazza, capito? E più una coglione di buccia la Simona che fa, si chiede una chiappa pure un bariccio. Qua è pieno. E chi è? Zafra, buonasera. Buonasera Gian Mario, buonasera anche agli altri amici. E qua c'è la fila sempre, ogni giorno, anche poco fa c'è la gente facendo. E dove? Qua? Dove sono io, Gian Mario? C'era anche Tore, Tore ha chiuso, che ha preso la moglie e siamo rimasti io e Luca, ma non c'è rimasto nessun altro. Sì, no, io faccio sapere. No, dicevo dai lumaconi, qua quelli che ci sono dentro invece sono enormi, sono giganteschi perché non li tocca nessuno. Dentro qua la come si dice? Dentro la proprietà. Quelle serbate sono più buone che buonissime. Noi le compriamo lì quando sono a Piazza dei Segni, o lumacche, o lumacchino, o le lumacche. Le lumacche le abbiamo prese lunedì scorso, ma le sono buone ancora, dai. Però sono dei vivaio quelli lì. Quelli saporiti sono quelli serbati, si lumacche, lumacchine, lumacconi, già fra. Allora, la tua zona ce l'hai, sì? Sì, Gian Mario, però lumaconi, lumacchine non so perché non se ne vedono molte, ma lumaconi molto grandi, sì, ce ne sono parecchi. C'era Luca, avanti Luca. Luca, mentre ha rilanciato Gianfranco. Hai sentito, a parte essere parecchio, lumaconi. No, Gianfranco, non ho capito. Signor Gianfranco. No, dicevo che qua da queste parti già ce n'è di lumaconi, lumachine molto meno, perlomeno non ne ho visto molte, veramente poche. Lumaconi quelli grandi sì, solo che c'è la fila delle macchine sempre. Stato comunale. Vabbè, ma questo va per tutti. Sono molti, molti avanzati. Solo se vai. Sì, no, ma qua c'è il coso, come si dice, il rifatto, perché non è che li prendiamo sempre, rarissimo proprio, perché non ci interessa, e quindi crescono qua dentro, dove non entra nessuno ovviamente, però siccome li lascio in pace sono tutti grandi, a meno che non li fai fuori quando passi il coso lì, come si chiama, il trincia, dai. Ma non lo senti tu? Forse per propagazione che c'è Giovanni, ogni tanto sono dei segnaloni. Delle FM, entrano in FM anche, segnaloni veramente, cazzo. Propagazione buona c'è in FM, dai. Da fuori. A pensare che la possiamo usare anche lui, cazzo, e invece siamo sempre la M. Sono tutti rischi di norma di quei paesi lì, perché se la usavamo da sempre, capito? Anche prima non c'era neanche la M, si usavano solo FM. E in effetti è meglio, là. Sì, l'FM è la radio più pulita, dai, più selettiva, però siamo poco e niente lui. Luca! Ah, Luca è andato a mangiare pasta al forno, per cui lui gli piace la pasta al forno. A quest'ora? Vero lui, mangiato sai. Insomma io pensavo fosse Marco quello che mangiava al ristorante. Ma tu merenda tutte le ore, ogni tanto gli viene l'appetito e mangia. E Marco ha quelle ore stabilite per cui tutto arriva al riverso di noi, ecco. Però hanno preso quell'abitudine e per loro va bene. Ma che volta quella che merendina ce la mangiamo anche noi a quest'ora. Ma Luca ha sempre fame. È meglio così, è importante che ci sia qualcosa da mangiare domani. Quando c'ha fame uno, chiaro che... che poc'anzi, da quando mi sono riposato, mi sono alzato, ero così, oggi la gente mangio la merendina e mi sono mangiato la merendina, ne puoi immaginare. Ogni tanto capita anche a me avere l'appetito, va. No, io mi sono mangiato un po' di gelato invece. Poi più tardi vedo un po'. Gelato, perché dopo pranzo va bene. A qua lo sta facendo caldo, l'abbiamo già preso voi. E per cui non è che mi va tanto. Quando fa caldo sì. Preferisco i biscotti, quelli mi piacciono molto, però quando c'ho biscotti abbiamo quelli barattoli in plastica da chilo ce lo prendiamo, capito? Però quando fa molto caldo, ecco. Ma guarda, oramai non se ne capisce addirittura. Sto guardando il tempo qua, mi dice ciclone in azione, grandinate imminenti, notte tempestosa, il venerdì sarà quasi autunno, andiamo bene. Io penso che fossi oggi, invece no, ho visto di aggiornare Rai 3 e ha messo il temporale anche di forte intensità, però se lo stanotte e domani. Penso che sia stanotte e domani, però ha messo acqua forte, acqua soli forte. Per carità, guarda, io sono anche un figlio, tra l'altro, quindi ci puoi immaginare che allegria. Stamattina comunque me l'ho presa tutta perché sono uscito in bici, ma ha pizzicato proprio, ma l'ho presa tutta, ininterrottamente. Sono andato a Porto Torres lì, mi ha proprio fatto dricia dricia, come si suol dire. Però Asco, a un certo punto non è che ti puoi fare condizionare troppo dal tempo, siamo in autunno se continua così. Anche noi l'abbiamo preso un pochettino, non molto. Oh, c'avevo l'ombrello in macchina. Sono andato a ritirarmi in cosa alle 7.30 al sindacato e non ti speravo di trovare il parcheggio in via Roberto. Nemmeno faccio apposta, proprio sono stato fortunato, ho trovato un pezzo. E stava più vigilando, ma come non sono uscito dalla macchina ho cominciato a aumentare e ti dico che a quando sono arrivato a destinazione è un po' bagnatino e al ritorno la stessa cosa, capito? Ne ho preso un bel po', ma non molto, però mi sono bagnato un po'. Appena io ce l'ho sempre in macchina, come se la macchina sapeva venire a prendere l'ombrello, invece oggi perché era vicino non l'ho preso, ma mi ha beccato in pieno. Infatti, ma io sono uscito a tutti i costi perché dovevo fare il collaudo di una bici e quindi mi sono bagnato. Domani qua per Sassari però da tranquillo, sabato da addirittura buono, quindi speriamo bene, evidentemente tutta l'altra parte, magari la parte sud che si chiama, perché è molto grande questa perturbazione. Vediamo un po' se non cambia idea, perché adesso mi sembra tutto nero qua, poi vediamo se cambia. Ogni tanto si affaccia il sole, dopo si copre ed è così, dai, che non cambia salotte. Comunque adesso salotte è domani, sì, domani mattina, poi vedrà lui cosa fa. Non è a Puglia, cazzo, ieri ero tutto il giorno in campagna e stavo tagliando erba, cazzo, adesso che l'ho tagliata torna a crescere e già fra. Vabbè, ci puoi fare almeno a mattolora, mi scendo giù ogni tanto, qualche cosetta la faccio. E cosa vuoi fare? Sotto casa, buttato dentro casa, una noia che non finisce più. Giovanni è meglio uscire, se ti lasci, se poi rimani in casa va bene un giorno, se sei stanco, se non è Puglia, ma poi Tintania, buonanotte, non esci né col caldo né col freddo, ma è sempre meglio uscire poi in campagna, almeno respiri aria un po' decente, non è come stare in città. Io lo stesso, abbiamo tagliata l'erba avanti ieri anche, ma mi sa che è una guerra persa, dove avevamo tagliato qualche settimana fa è cresciuta di un metro, una cosa che non si crede, guarda, se non stiamo facendo altro che andare e tornare tagliando come tutti d'altronde, perché non fa Giomari, ce n'è da uscire di testa quest'anno. Ma è così, anche io l'avevo tagliato da poco, sarà 15-20 giorni fa, proprio tagliato anche bene, proprio, ma almeno se non piove sono tranquillo. E invece ragazzi, ho visto che è cresciuta maledettamente, era un bel alta. Però ho terminato e ho finito tutto, era rimasto un pezzettino che dovevo scendere stasera, ma stasera il tempo non era tanto bello, magari adesso magari è anche bagnata, per cui non c'è senso anche per quello, se no sarei sceso e me l'avrei tagliata su tanto 10 minuti, un quarto d'ora, è una specie di gradore che c'è, che me l'ha rimasto. L'altro è tutto bello pulito e un bombo, speriamo che adesso con quest'acqua non cresca tanto, ma mi sembra che cresce di nuovo e tra 15 giorni bisogna tagliare di nuovo gli affari. Sì Giovanni, ma se te la tagli oggi e poi la prossima domenica te la ritrovi alta, cosa puoi fare? Anche perché un conto se la campagna è piccola, ma se è grande è un macello. Noi qua abbiamo, non so come la tagli, se la tagli con il cespugliatore. Qua abbiamo direttamente il trincia, no? Che è movente, ti metti dietro, sicuramente lo conosci, e va da solo, però insomma quando ci stai un'ora ti fatichi lo stesso, e anche se ci devi solo stare dietro e premere i pulsanti. Sto 3.500 il mio, però c'ho tutto fruttetto da me, ma no, già fra, io c'ho, è tutto fruttetto, c'è solo questo gradone che non c'è niente, prima erano tutte ciliegie lì, e susine, le moniche, e sono secche tutte, allora mi è rimasto quel gradone solo, il resto è tutto fatto, è pianura e c'è il resto, capito? E lì fa in fretta, io pure sono attrezzato per cui, però se mi metto in 2 o 3 sere così, un paio d'ore la sera, me lo pulisco bene, capito? Non è che, perché non lascio crescere molto, capito? Infatti dove ci sono gli agrumi lì la lascio un pochettino, la spunto sì, però non è che la taglio proprio a zero, perché in solito dove c'è agrumi bisogna lasciarci l'erba sotto finché non è maturo gli agrumi, capito? Dall'altra parte no, però è tutto fruttetto da me, capito? Sì, Giovanni, ma anche noi ce l'avevamo, o meglio ce li abbiamo, alcuni alberi, ci sono delle susine che sono uscite, però non sapevamo cosa fare, alcune sono seccate, altre sono uscite, insomma un disastro, poi le nespole e tutti gli altri, molti alberi sono seccati totalmente, cosa che c'era anche da parecchi anni, col cambiamento che c'è stato, caldo freddo le ha distrutte, tutto distrutto, tutto secco, proprio, tu guarda, lo spezzavi l'albero spingendolo solo, perché è proprio morto. C'era da un albero di limone che le radici sono addirittura uscite fuori cercando acqua. Adesso che l'acqua ce n'è molta, le fa male. Boh, se ne capisce, bravo. E gli agrumi d'estate io la do l'acqua, Cazzo, almeno 2 volte alla settimana gliele do io, capito? L'anno scorso che non mi sentivo tanto bene, c'è stato proprio in quel periodo che faceva molto caldo, non ci stavo scendendo, e per cui ho visto che anche gli alberi degli agrumi hanno sofferto con la seccagna che c'era, era proprio secco il terreno, e per cui l'hanno sofferto veramente. Però gli agrumi, magari le pere, le susine, no? I fichi, io ho tutto, ho tutti i tipi di frutta, anzi se me ne sono seccate, perché è chiaro che dopo tanti anni una pianta va a finire a farsi benedire, certe piante, per cui non c'è un punto da poter mettere un'altra pianta, per dirti, frutta c'era quante ne vuoi, di tutti i tipi. E per cui però c'è sempre qualche pianta che si secca, capito? Come le ciliegie, c'avevo 3-4 piante che su altre ciliegie facevamo lì, sono tutte tarlate e sono secche. E anche le susine limoniche, ne avevo parecchie io. E parecchie sono secche e parecchie ci sono ancora. Ma c'è la campagna, purtroppo ci secchiamo noi, ci seccano anche loro, dai. Così Giovanni, ma noi ce l'abbiamo, da noi è un ettaro in certi punti, però devi stare attento quando passi, perché c'è anche rocca, diciamo, lo dovresti conoscere com'è il terreno in questa zona, però il picco regge. Quello sembra che non le abbia fatto niente questo clima, mentre invece gli altri sono in difficoltà. Poi non parliamo del fatto che quando escono buone ci sono anche le cornacchie che ci mettono del suo, quindi è un disastro veramente. Sì, purtroppo la campagna sono anche gli animali, invece, che poi specialmente oggi si distruggono tutto, ma adesso per esempio sono gli abbi, quest'anno gli abbi, che ho 7 piante albicocche tutti gli anni, ma lo sa, non ti, cioè, per poter passare sotto dovevo prendere il rastrello, non ci potevi passare da quanto la mettevi, ma l'ho capito. Ma quest'anno invece poco e niente, forse perché li ho portati un po' e allora magari ne ha messo molto, ma era tutta bella fiorita, che sai il fiore che c'era, però quella grandine evidentemente le ha buttato tutto il fiore, non ne ha messo poco e niente, capito? E adesso vedo, ma che cacchio ce ne sono pochi quest'anno, a quintali quei cacchi li facciamo, ti permette già fra, ma sai i cacchi che diamo e che prenderamo voi i gatti, che ce li mangia tutti i gatti, ma quest'anno mi sembra che non si guastino nemmeno i cacchi, si guastano più. E infatti Gianmarino, anche quello è un problema, perché qua c'avevamo le zucchine, lo stesso, sono diventate giganti e quindi due che la valla servivano giusto per entrare in testa a qualcuno. E lo so, i carciofi sono diventati enormi, però ne escono tanti, capito? Quindi quando le persone sono poche, no? Li regali sì, però sai, tanta fatica per niente, poi magari neanche li usi, e purtroppo è così. Forse ce l'ho parecchio io, è tutto protetto fatto, capito? Tutti i tipi, solo che anche i miei figli non ci scendono, perché anche loro ce l'hanno la campagna, per cui cosa c'è da fare? Non raccolgo le mie, da te, anche quello c'è, capito? E certe volte la raccolgo io e gliele do, dice ma c'è bisogno, già però non farla perdere, però se ne perde molte, dico amici di frutta, cazzo, specialmente i cacchi, anche le susine, di tutti i tipi, aranci non ti dico niente, invece quest'anno, speriamo che quest'anno ce ne sia qualcuno, perché l'anno scorso hanno sofferto parecchio, per cui la pianta non è che sia tanto bella, capito? E sono parecchie piante, io ne ho. E ce ne sono una trentina, 30 o 40 piante ci sono, E che zona sei tu, Giovanni? Quella di Basso Ottava, no? No, a Ottava c'è mia figlia lì, a Giacomona. No, io ce l'ho a coso, dietro Sacamillo, proprio sulla vallata, Tanica Malafede ce l'ho. Mi va a fianco dove c'era il pollaio, a parte destra, scendendo. Dove abita lui, lo sai dove abitava lui? No, Giovanni, c'ho presente la zona Tanica Vanna, che tra quella lì che c'è dietro San Camillo, eccetera, però sapevo che era una zona su cui ci abita un parente praticamente. So che è una zona un po', adesso non lo so, però un tempo era molto frequentata da, insomma, da quelli vanolestami. La zona è Tanica Malafede, c'è Tanica dove c'era il pollaio. Io invece solo vado a destra, no, a sinistra c'era il pollaio prima, che adesso c'è il silos, il pollaio non c'è più, adesso hanno fatto. Io sono a destra scendendo, sulla vallata proprio, rimane proprio la vallata, vedo tutto a Platamora, vedo da qua la vallata, perché tutto nella vallata ce l'ho io, capito? Tutto in piano, tutto bello pulito che è un bombo. Lì si sta bene veramente. Zona bella, l'acqua ce l'ha 4 e voi, ma c'è il posto a 164 metri, Puoi immaginare? No, anche noi ce l'abbiamo già, ovviamente al posto. Il nostro scende molto di più, a 100 metri. Non è mai mancata, c'è sempre, perché non so neanche dove arrivi qua. Però è ghiacciata, bella fredda quando esce. Beh, quella è stata sempre fresca quell'acqua, è da 160 metri, è sempre fresca lì, e acqua ce n'è a buzzeffa, non manca mai, perlomeno non mi ha mai mancata, acqua ce n'è parecchio. Ci ho fatto un vascolo molto grande sopra e poi a scendere tutta la campagna e viene per discesa, fa tutto l'impianto e per cui dattelo acqua e a quanto ne voglio, gatto. Sì, anche noi abbiamo la cisterna, quella in plastica, no? La classica, quella blu. Dovrebbe essere da quella alta, adesso non so se sia 3.000 o 5.000 litri, ma la riempio un attimo. E lo stesso è in zona alta, siccome questo è in discesa, quindi viene anche bene. C'è un rubinetto ogni 5 metri praticamente, ho fatto tutto, in tutto il perimetro ci ho messo l'acqua. Perché è rotta ed è limpida, tu figurati che io ho i filtri, c'ho anche quella del comune, no? Quella del comune i filtri diventano neri, ma neri però te la fare schifo, le dobbiamo pulire una volta alla settimana, viene male anche usarla per lavarsi le mani quasi, se non fosse filtrata guai. Mentre quella del posto è limpida sempre, proprio limpida, pulita. Limpida, prima era limpida, che 30 anni fa e più, 40 anni fa, era sempre, la usavo per, anche per cucinare, io di quel mangiare, perché l'avevo fatta analizzare, l'acqua era buonissima, poi in lungo andare hanno cominciato a costruire lì, perché tutto costruito lì, ogni tanto lo facevo analizzare e mi dicevo che l'acqua non era più buona, infatti adesso non è più buona, solo per la pare così e basta, non si può usare più quell'acqua, capito? E per cui l'acqua ce n'è parecchio, capito? Ma l'acqua è fresca sempre, perché il vascolo è molto grande, ho fatto, e per cui scende tutto a discesa, e per cui innaffio tutta la campagna, mi innaffio io, capito? Sì, però è tristezza avere l'acqua del pozzo pulita, e quella che paghi dal comune ti esce veramente sporca tutto quello che tocca. Bobo, non capisco cosa stanno combinando questi. Una volta, quando eravamo piccoli, l'acqua del comune la bevevi, la usavi per tutto, non ce n'era, l'acqua minerale era raro comprarla. Adesso invece non c'è altro che comprare bottiglie d'acqua, perché questa qua del comune non si può bere. Poi già lo sai, già mai anche da voi, credo, nel quartiere l'acqua, avevo detto che era uscita anche gialla. No, non si può usare, no, che sto succedendo, che anche qua fa pietà, mi apre il rubinetto e c'è gialla, ruggino terra, certe volte a farsi la luce, certe volte non me ne faccio perché rimane proprio terra, è quello della terra, ti puoi immaginare, è impossibile. Invece la campagna è pulita l'acqua, va bene, è calcarosa, però rimane pulita per farci la doccia, magari per lavare è buonissima, capito? Ma qua non si può usare più, no? Certe volte è meno a lavarsi il mare perché fa schifo l'acqua del comune. Però io ce la fanno pagare anche cara. Ma il fatto che questi impianti sono tutti vecchi, cosa gli avevano fatto la buona Mussolini tutto l'impianto idrico di Sassari e delle altre parti, e sono tutti marci ormai, e bisogna fare tutte le canazioni nuove, ma soldi non ce ne sono e non ce le fanno, perché adesso cosa succede? Magari ripari qua, dopo un metro si spaccia l'indomani, e così via, tutti i giorni stanno riparando sempre gli stessi tubi, capito? È tutta colpa di Claudio sicuramente, vediamo se esce fuori. Claudio, è colpa tua. Lui adesso se ne frega, è a manovra, certo. Adesso è tranquillo, adesso è sempre da Franzi, dice che appena che se ne andava in pensione si riposava, mi sembra che adesso lavori più di quando stava lavorando veramente. Vabbè, è così purtroppo. Bene, io mi devo allontanare una decina di minuti, dai, se ci sei magari io ti chiamo tra 10 minuti, ok? Mi sa che anch'io adesso me ne vado a mangiarmi qualcosa, lo sai, tanto sono le 7:30 quasi, quindi inizio a pensare cosa mangiare. E comunque, no, Gio Marì, chi va in pensione e c'è la campagna, non credo che vada a riposare in pensione. Questo è poco ma sicuro, è meglio che si rimanga a lavorare. Ci sentiamo, Gio Marì, buona serata, buona cena. Ok, e poi c'è sempre da fare, capai, lo sai, no? C'è sempre da fare, ma non ne ho voglia, non ne ho voglia, poi per quell'incidente che ho avuto non è che possa fare molti sforzi, devo stare molto attento, sennò io sono cavoli miei. Però qualche cosetta leggera già la faccio, piano piano, se non ci metto un giorno ci metto una settimana, però già me la faccio, e qualche volta prendo anche un'altra persona, mi aiuta e lo pago e me la pulisce, capito? Infatti, Gio Marì, è così, meglio non divertirsi solo, fare quello che puoi fare, poi l'altro pazienza, tanto spesso fa le cose, poi arriva l'acqua, cresce l'erba e siamo punti a capo. E adesso sto facendo il sole, roba la macchia, adesso non ci serve. Bubu. Vabbè, ti saluto Gio Marì, buona serata a chi ascolta anche, ciao. Ok, ciao, dopo ragazzi, una piccola chiacchierata, fa sempre piacere, dai, buon proseguimento serata. Ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao. Marì! Dimmi tu. Sono rientrato adesso. Dimmi. Anche se ho pure Gianfranco, no? Stavo chiacchierando e stavo ascoltando, e insomma ancora attore, si vede che non è venuto. Anche se si è sentito. Se non è in ascolto. Aspetta a vedere, ma chi io? No, non da davanti, non vedo, quindi non è all'ascolto. Infatti oggi si vede che non ha... Ieri c'era, ma oggi non aveva voglia, non l'ha accesso, e pazienza. Lo sentiremo domani. Aspetta, forse era qua. Ma chi tu eri? Buonasera a tutti e due, sto lavorando. Buonasera, c'ero ma che lavorando stai? No, sudare mi che ti fa male se sudi. Non parla più. No, devi darsi la consegna, devi darsi. È perché sta lavorando. Dai. È importante che lo sudi. Davvero. Facciamo lavorare allora. Ci stiamo aggiustando, signor Marchiglio. Buonasera comunque. Prolunga corrente, prolunga... Prolunga per i cibi giusti, capito? Il cavo nuovo ti stai facendo. Oh, se vuoi il cavo grosso te ne do qui. Ma giumbe. Però signor Gio Marì. Anche io ne ho un cavo grosso. Ma adesso avevo messo tutto cavo qui fine, 155, quello. Avevo preso 200, no, aspetta, 25, ma ho preso per fare due discese 50 metri e più altri 20 metri separatamente avevo preso la prima e io capo perché avevo voglia di buttarne la mantova e cambiare il cavo, capito? Però boh, non lo so se ne ho voglia a cambiarlo quest'anno. Boh. Eravamo decisi così. E faccio tutto pronto, però mi sembra che non ne tocco. Se non c'è che fa buona giornata e tutto, si può salire lì. E si può salire in tre? In tre, quattro bisogna salire, so. In quattro da me si può fare il lavoro benissimo, capito? In quattro si fa benissimo, bisogna buttarla e cambiare anche i tiranti, perché avevo preso anche lo sparo grosso, quello da mare, per i tiranti, anche quello avevo comprato. Per cui il capo, tutto, la discesa del capo, ho preso quel tubo plastica e metto dentro la discesa attaccato al palo, capito? L'ho lasciato così. Ho comprato anche quel tubo in plastica. Anche quello avevo comprato. Ma se si può fare è meglio cambiarla e poi così sia a posto, sì, e metterla a posto. E adesso vediamo un po' più in là, dai. E luglio, forse in luglio, quando comincia a fare il tempo caldo, un po' bello. Cioè perché bisogna salire che non ci sia vento, capito? Se non ce la fai a drizzarla, se c'è vento è un bel pericoloso, anche se va là, se ci va io se avevo l'altro, per cui bisogna stare attenti, se non ci sia vento, allora va bene. Però ma chi? Senza il vento, l'assenza di vento vuole per fare le cose. Se non fai un buco nel solaio, già morirà, fai scendere su giù, la piazza e poi la riposi su. Faccio così allora, forse viene più bene così e basta. Facci vedere la roba, perché lavoro in piano, senza fatica. Ma se fai un buco, poi ci ricordo e ti tappo. Ok. Vabbè, quando facevamo le antenne con la Borabia di Mario, già facevamo sempre i lavori ben fatti, certo. Adesso qua perché c'è stazionario è parecchio, ho capito? Deve essere che il capo tocca o non tocca, già c'è l'accordatore, però vuole cambiare il capo, ho tutto pronto, solo che c'è a trovare la giornata giusta, e se è 4 e si piazza, si scende e si piazza, capito? Boh. Un paio d'ore penso che si possa fare tutto, sempre che abbiamo voglia. Io dico che lo farlo, veramente ci ancora. Infatti, così bisogna fare. Bisogna fare tutto. La fretta, quando si fa in fretta si fa sempre male il lavoro, invece fatto piano piano si fa bene e dura di più anche. Ci avrei avuto il passaggio da me, che a quest'ora sarebbe stata già fatta da un mezz'anno fa. Però tocca andare sempre a rompere in quella scala di vicino di Mario e allora non mi dico niente, però sempre se devi scendere, salire, è una rottura per il portone, si capisce, è una rottura. Però adesso come viene troppo buono, allora quelli di su se ne vanno a mare, per cui posso salire tranquillo. La famiglia di Mario, il portone già me l'ha prefacilmente, dai. Tutto deve avere la piano per entrare. Ma invece cosa? Non abita lì, Mario. Abita sempre lì. È sempre in quel pezzo di giardino. C'è Pighive, tutta la mano c'ha Pighive. Rassicheggi, ho posato, ho tramutato, ogni tanto vado a Piazza del Caffè, la compro la macchinetta, torna, e che è? Tanti a mangiare, bisi, drome e semafutti. Lo voglio a forse, ad America Viro. Avvio. La macchina si ritira, che so, bugatto, boh. Stava comprato la casa. Cazzo. E ritira, se no, alleggerisci la famiglia. Ah, che sono tutti, tutti senza travagliare. Uno solo viene travagliente. Li prende a certo. Sì, passi direttamente in quinta a base, dice. Se non batte così in quinta vuol dire che non fa nulla. Ma già si conosce la pecora, ma chi se glielo sa? Sono lavorato con me anni e anni, eppure non era un simbolo, ero abbastanza lavoratore. Sei un po'. Magari che rubiglia a travagliare, già che non dà gana, ma boh che rubiglia, cazzo, lo ridare sul dato lo fa, dai, lo capisci, a chi ammazza i bisi, un di è. Voglio vedere se se ne andrà la mamma cosa fa, di chi ecco, lo prego per la mamma ancora, e a chi sotto rubiglia la mamma, lo assai, ma voglio vedere cosa fa, te la casa dai, sta vicino là, ti ritiri, e ti arrangi, e alleggerisci anche la famiglia, e invece... mi pare una gara. Poi si chiede che mangia il mio e si è travagliato, si è andato da Giulia, si è andato a travagliare. Giulia, per carità. Se magari una gara travagliata per quella cifra lì e ti dici arrivederci. Spero e tu, Giulia, per carità. Va bene, dai, io chiudo, che sono già le 8 passate per cui ne approfitto, dai. Ti raccomando, fallo bene, mi controllo con te se dopo lo spessore ma chi. Ciao, saluto Riccardo, ci sentiamo. Ciao, buon proseguimento, a domani se coincide, riprendi tu, io chiudo, ok? Ok, Giammari, ci sentiamo domani, se tutto andrà bene. Va bene, dai, riprendi ma chi. Ciao, sono io, sono in casa, anche se domani tutto coincide. E anche io sono, non è che non so più, sono loro. Sentiamo, grazie delle quattro chiacchierate, ci facciamo domani, se tutto coincide. Sono in casa, salutissimo ancora, ciao ancora. Ciao Bacchi, ci sentiamo domani, ok, ciao. Ciao, ciao, ciao.